il Festival della Letteratura Resistente, edizione 2017, a Pitigliano, quindi non lontano da Roma, dall'8 al 10 di settembre. Ne parliamo con l'editore al contrario, Marcello Baraghini. Marcello, ci sei? Sì, ci sono. Grazie, ben ritrovato, dell'opportunità che mi date. Allora, raccontaci un po', intanto, per chi ci ascolta e non conoscesse il festival, raccontiamo in breve di cosa si tratta. Il festival sedicesimo della serie, dedicato, intitolato Alice ritorna a Pitigliano. Alice, per quanto rappresenta di anticonvenzionale, di sorprendente e di provocante, ma incentrato, il cui focus è il disagio e il riscatto attraverso la letteratura. Quindi venerdì 8 pomeriggio 18:30, sabato ininterrottamente tutto il giorno e la sera, la domenica ad oltranza, disagio e riscatto attraverso la letteratura. Quindi scrittori ammatti, scrittori disagiati, scrittori ergastolani, scrittori e altri matti, altri disagiati, altri anticonformisti. Il tutto gratuito, libero, sorprendente, provocante e senza sponsor, a differenza di altri festival in corso negli stessi giorni, che non voglio far nomi qui. Marcello, i luoghi quali saranno? I luoghi è la libreria, la più bella del mondo, come diciamo noi, come dico io con un po' di enfasi, a Pitigliano, sia nel piano strada la libreria e sia nei locali sotterranei, dove sarà ospitata una mostra di una matta, una mostra fotografica di Alda Merini, su Alda Merini, a casa di Alde, dove avverranno laboratori per bambini, perché tra i protagonisti non solo ci saranno i disagiati, i matti, ma i bambini, attraverso nuovi libri dedicati a loro, soprattutto antifavole, sempre per rompere la cappa del conformismo dal quale vogliamo fortemente uscire, evadere, per una rivoluzione editoriale che noi, io ritengo in corso, inarrestabile. Mm-hmm. Senti, per quanto riguarda gli ospiti di questa edizione? Matti. A dire, posso fare un nome, perché già i suoi due libri per stampa alternativa hanno provocato un caso. Alice Banfi, cioè matta dichiarata, certificata con accompagno, che in due libri, Tanto scappo lo stesso, Vuoto a perdere, si è affermata con la sua capacità di riscatto rispetto all'etichetta di matta patentata. Quindi Alice Banfi, uno psichiatra pentito, Baraldi che diventa mago ciarlatano proprio per irridere anche agli stilemi della psichiatria ufficiale, e poi lo scrittore che noi chiamiamo, io chiamo il John Fante italiano, Alessandro Angeli, con i suoi primi due libri intorno al disagio quotidiano e al racconto, in maniera tale da riscattare anche il disagio quotidiano, farlo diventare letteratura e quindi in parte liberarsi in questo senso, così come la scrittrice grossetana Roberta Lepri con Ci scusiamo per il disagio, che è un libro che ha fatto storia già negli scorsi mesi. E poi gli ergastolani, poi il disagio estremo, pensate, il 41 bis, l'ergastolo, e il riscatto attraverso, certo, il riscatto non è liberazione, non ci si libera dal 41 bis, non ci si libera dall'ergastolo, ma certamente attenua la cappa di oppressione intorno anche all'ergastolo che formalmente non esiste, ma poi esiste di fatto. Ecco, un po' questa quindi, Carmelo Musumeci, Nicola Valentino, Nadia Bizzotto e coloro che hanno portato alla nuova casa editrice, alla vecchia, alla tradizionale stampa alternativa, alla nuova Le Strade Bianche di stampa alternativa, hanno portato un humus di letteratura degna della rivoluzione editoriale, come io dico, in corso. Senti, una curiosità, Tanto scappo lo stesso, dai. È un titolo tuo? Sì, io so fare poche cose nella vita, soprattutto l'editore all'incontrario, e tra questo è catturare i titoli che facciano presa piuttosto che i titoli illeggibili alla Selleri o alla non faccio altri nomi, ma quelli di Sellerio mi piace citarli come titoli invisibili, non si leggono, se si leggono sono banali, ma scusa, perdonatemi la battuta, poi nel catalogo Sellerio c'è anche della bellezza. Bene, il titolo deve urlare, per così dire, certo in maniera educata, ma deve urlare, deve esprimere il più possibile i contenuti del libro. Senti, le tre giornate che orario copriranno della giornata? Dunque, il pomeriggio, i matti del venerdì, anzi il matto di Pitigliano è un classico perché sotto trattamento sanitario obbligatorio svelerà come la legge Basaglia è stata nel suo caso disattesa e con quale modalità, diventando scrittore a lui pubblicheremo il libro La psichiatria mondiale, racconterà e credo che questo servirà molto a lui per liberarsi dalla cappa che lo opprime. Quindi 18 di venerdì, poi Alice Banfi la mattina dopo, i laboratori per bambini, la Roberta Lepre, Alessandro Angeli il pomeriggio, c'è una chicca, c'è una dopo il laboratorio per bambini dalle 17 alle 19 di venerdì c'è un libro, Le antiche frittate, anche che bisogna pur mangiare, possibilmente non inquinati dalle multinazionali del cibo, quindi Le antiche frittate pitiglianesi, da un quaderno trovato in un cassetto con le uova di vera gallina, vere uova di vera gallina di campagna, e quindi per arrivare poi alle 21 di sabato allo spettacolo intorno a Sordo Mutuo, il secondo libro del gionfante italiano Alessandro Angeli, ad oltranza poi un po' di cabaret, un po' di spettacolo intorno a quel libro, per poi poche ore dopo incontrare gli ergastolani, ripeto, Carmelo Musumeci, Nicola Valentino e coloro che li hanno seguiti come Nadia Bizzotto e Francesca De Carolis. Marcello, in chiusura volevo chiederti anche una sorta di breve bilancio di questa delle passate edizioni e prospettive del futuro. Ma le passate, sai, noi cominciamo con il Festival degli scrittori analfabeti, coloro che, avendo avuto un cocciaio, un tombarolo, per dire, una contadina analfabetica, avevano avuto una vita degna di essere raccontata, una vita orgogliosa, divennero scrittori perché li pubblicammo per ognuno di loro il libro del loro racconto, per arrivare al disagio esteso di oggi a forme di riscatto che secondo me sono soltanto quelle della letteratura. Ma aggiungo di più, la rivoluzione in corso vuol dire per me anche la mia nuova casa editrice che ho fondato lo scorso anno per il 15° festival, quest'anno il 16°, si chiama Le strade bianche di stampa alternativa, libri gratuiti in rete, libri sociali, non finzioni, quindi al bando tassativamente le finzioni, letteratura sociale, gratuiti in rete, prima ancora di essere proposta a prezzi calmierati del 70% rispetto a quelli di mercato, quindi da un centesimo a un euro fino a 5 euro i libri di molte pagine, e poi edizioni cartacee mirate dopo il caso che può scoppiare ed è già scoppiato in rete, e fuoriuscita attraverso l'eliminazione tanto del copyright quanto del codice a barre. Non occorre tanto fare manifesti contro l'editoria di regime, ormai in Italia siamo a fronte di un editore unico che è un mascalzone naturale, si chiama Silvio Berlusconi, lo afferma il Tribunale di Milano, editore unico. Bene, usciamo da questo mercato manipolato da un editore unico, mercato editoriale, mercato culturale, editore unico, delinquente naturale, come afferma il giudice del Tribunale di Milano, usciamo da questo mercato per tornare alla macchia e riproporre editoria di qualità popolare per quella rivoluzione editoriale che è tanto indispensabile quanto urgente. Le strade bianche di stampa alternativa, sito stradebianche.com, dove tutto questo popò di spettro rivoluzionario, orizzonte rivoluzionario, può essere vissuto giorno per giorno. Benissimo, Marcello, allora ricordiamo, 16ª edizione del Festival della Letteratura Resistente a Pitigliano dall'8 al 10. Venerdì 8, sabato 9 e ad oltranza domenica 10 settembre. Un abbraccio. Via Zuccarelli 25, Pitigliano. Perfetto, un abbraccio in bocca al lupo, anche alla prossima. Grazie di nuovo, grazie. Ciao, ciao Marcello.